Ringrazio anche Paolo Blasino per questo quadro così ampio, così ricco di problemi, che ha completato nell'altro aspetto italiano la relazione del professor Benvenuti. Direi che proprio la ricchezza di questa e dell'altra relazione sono una conferma di questa scelta di dedicare a delle situazioni strutturalmente così diverse, se vuoi anche con tante analogie, due relazioni, e direi che questo è ulteriormente confermato dal fatto che esiste addirittura nel caso elettorale un'altra diocesi, che forse quella da certi punti di vista culturali, spirituali, politici e sociali più interessanti, è che quella di Gorizia. Abbiamo sentito la Blasina, inevitabilmente ha toccato questa dimensione politico-nazionale che rappresenta una delle caratteristiche fondamentali della vicenda religiosa di queste regioni, e l'aspetto che pare anche molto suggestivo che emerge dalla sua relazione è quello che temi di carattere, in fondo in apparenza strettamente liturgico, finiscono invece con l'essere, nella situazione particolare, una delle manifestazioni del contrasto nazionale, e da molti punti di vista questa discussione sulla lingua liturgica non è che un altro degli aspetti delle più ampie discussioni di tipo linguistico che si sviluppano, discussioni, contrasti linguistico-nazionali che caratterizzano la vita della Venezia Giulia in questo lungo ultimo arco di vita politica all'interno della monarchia sfuggita. Abbiamo finito esattamente per le 11:15, abbiamo meritato la pausa che anche per ragioni organizzative dovrebbe oggi essere un pochino più lunga, quindi direi di rivederci tra mezz'ora. Wie in der Frühversprochen stehe ich eventuell während der Pause zur Verfügung für eine kleine, wirklich kleine und kurze Zusammenfassung der beiden italienischen Referenten. Bis später und natürlich es wird während der Pause die Auszahlung erledigt. Das ist die erste und wichtigste Angelegenheit und dann kommt eventuell meine Besetzung. Possiamo incominciare allora subito la discussione e proporrei forse che perlomeno nella fase iniziale i relatori rispondano immediatamente alle domande. Se in determinati casi qualcuno pensa di intervenire sulle due relazioni, pregherei di sintetizzare in un unico intervento questi commenti o domande alle due relazioni. Abbiamo ancora circa un'ora e mezza davanti a noi, quindi credo che il tempo sia sufficiente per discutere in maniera approfondita le relazioni della mattinata. Wenn ich den Vortrag richtig verstanden habe, ja, Herr Benvenuti, richtet sich die Frage, ist ein Grund für die weitgehende Annäherung des Trentiner Fürstbischofs an die nationale Frage die Befürchtung, dass vom Tiroler Volksbund eine antikatholische Wirkung ausgehen könnte? Nun frage ich mich, es hat ja im deutschsprachigen Teil Österreichs die Los von Rom-Bewegung gegeben, die massiv vom deutschen Protestantismus unterstützt wurde, in Gestalt des Evangelischen Bundes, der stärksten Laienbewegung des deutschen Protestantismus, der sehr große Hoffnung auf die Los von Rom-Bewegung in den deutschsprachigen Teil Österreichs gesetzt hat. Meine Frage ist, ob bei der Perzeption, bei der Wahrnehmung des vom Tiroler Volksbund angeblich ausgehenden Gefahr auch die Los- und Lohnbewegung in der Wahrnehmung des Trentiner Fürstbischofs eine Rolle gespielt hat. Quanto riguarda questa diffusione del protestantesimo tanto temuta, vero, dal clero trentino e in particolare da Lendrici, io ho l'impressione che ci fosse stata anche della esagerazione, perché di fatto ci si limita a l'istituzione di una cappella in quello di Arco, più preciso su questa attività del Volksbund potrà essere di certo il dottor Zappi nel pomeriggio. Comunque ci si limita in questa propaganda protestante a un predicatore che veniva a Arco, che era in fondo un curpor, no? Come luogo di cura, anche se in misura molto minore di Merano, però c'era la presenza anche, vero, di protestanti. E poi a Tenna, vicino a San Cristoforo, vicino al lago di Caldonazzo, anche là ci fu, è vero, l'istituzione della cappella, è vero, protestante. Di fatto il Volksbund faceva una politica simile allo Schulverein per quello che riguardava le scuole, vero, e per quello che ho trovato di documenti non ci fu tentativo attraverso le scuole di propaganda protestante. Io ho l'impressione anche che il vescovo Endrici cercasse di accentuare questo pericolo di propaganda protestante proprio per fare barriera contro l'invadenza dal punto di vista nazionale del Volksbund, in ciò appoggiato non solo dal clero trentino, ma anche, vero, dagli stessi liberali nazionali. Io mi limito solo a fare l'esempio del castello di Pergine. I volksbundisti, un gruppo di volksbundisti, vero, era sceso, vero, per fare propaganda del Volksbund nel Perginese, ora Pergine italiana, ma all'inizio della valle dei Mocheni, invece dove è un'isola, insomma, tedesca, no? Però Pergine italiana. Incontro a questi gruppo di volksbundisti arrivarono dei nazionalisti liberali, vero, però anche con presenza, vero, di clericali trentini a fare una manifestazione antifolksbundista. Però questo sempre per difesa sul piano nazionale, e non penso che la propaganda protestante poi c'entrasse molto in questa difesa. Comunque io ritengo che il Volksbund fosse di sicuro la minaccia più forte in quanto società pangermanica, anche rispetto a precedenti associazioni come il Schildmark e il Schulverein, fu più accentuatamente pangermanico il Volksbund, e quindi più forte l'opposizione da parte di questi, diciamo, non solo i redentisti, anche per la difesa della cultura e della scuola nazionale, no? Ecco, non so se è sufficiente questo. Prego. La signora Padre, cioè, signora Saracco. Rapidamente, intervengo sulla bella relazione del professor Benvenuti. È una relazione dove direi e si pone in evidenza un tema che già appare nelle pubblicazioni di Benvenuti. La questione nazionale, direi che tranne certi periodi, è forse a margine. Il problema è uno scontro dove si evidenzia un certo modello di Stato. Il problema è lo scontro fra un tipo di Stato e quello che dello Stato intendono possa essere i clericali. Difatti, il primo muoversi della Chiesa trentina è quello, in consonanza con la politica tirolese, di contrastare lo Stato laico e liberale. E questo è il punto fondamentale. La Chiesa trentina non accetta il liberalismo. Mi pare che questo è il punto chiave. Soltanto all'interno di quella parte del clero o da parte di esponenti laici del movimento cattolico, soltanto in quella parte che può accedere all'idea di uno Stato laico e liberale, ecco, soltanto lì la contrapposizione di loro. E mi spiego, una cosa è la posizione della Prato, un'altra cosa è la posizione anche del Conci e una ancora dell'ultimo De Gasperi, prima della dissoluzione dell'Austro-Ungheria. Lì c'è un'idea di Stato come garante dei diritti di tutti e all'interno di questo Stato, seppur in modo non irredentistico, si può operare una difesa nazionale. Per altri vescovi e per altre correnti del clero il problema non è tanto la questione nazionale, è la questione di uno Stato che invade per le sue posizioni giosefinistiche la sfera del clero. Uno Stato che non può essere accettato nelle sue componenti liberali e laiche. Tutta la corrente cattolica trentina è profondamente, tutta, una parte, domando scusa, gli uomini che citavi prima non lo sono, ma una grossa parte della corrente clericale trentina è integralista. Direi che lo stesso Enrici è un integralista, non viene a compromessi col liberalismo. Però, nonostante questo, non contesta la realtà nazionale del Trentino, l'accetta come realtà di natura spirituale, di natura morale, di natura linguistica, non la contesta. Casomai il problema nazionale viene sfruttato quando si tratta di combattere, sfruttato in pro e in contro, per esempio in pro da parte delle Indrici, quando si tratta di combattere uno Stato che viaggia ancora sui binari del giosefinismo. Perciò, da una parte, problema dei rapporti con lo Stato, direi in un certo senso insubordine e condizionata da questo la lotta nazionale. Grazie. Forse a quanto ha detto, e condivido pienamente, la Sagarbari, penso che quando ha scritto Lendrici, che è rimasto inedito durante la sua prigionia a Heidelberg, c'è proprio testimonianza di questo. Scrisse un saggio che è rimasto inedito, ma prevedeva, l'aveva scritto proprio per pubblicarlo, vero? Sul giosefinismo in Austria. E in questo saggio c'è tutta la sua critica, vero? A tentativi, vero? Dopo il concordato del 1855 di abbattere proprio articolo per articolo, vero, da parte dello Stato Asburgico questo concordato e affermare questa superiorità, vero, dello Stato sulla Chiesa. E in questa difesa, vero, si parla anche di questioni nazionali, ma sono secondarie per Lendrici rispetto alla questione del giosefinismo. Pur vivendo sulla sua pelle, vero, la sua posizione, accuse di irredentismo che l'avevano portato, vero, a questo suo esilio, però prevale questa difesa della Chiesa nei confronti di uno Stato giosefino sulla questione proprio stessa, vero, della difesa della nazionalità trentina. Ecco, questo penso che sia sulla linea di quanto ha detto Sagarbari e che dia proprio l'impressione di quella che era la figura più profonda, cioè la mentalità proprio delle Lendrici. Lendrici non fu un irredentista, anche se la storiografia tedesca cito Hans Kramer o lo stesso Sorfeiter ed altri, ha voluto un po' troppo forse accentuare, però, questa difesa della nazionalità da parte dei cicquani a farlo diventare un irredentista. Lendrici non fu un irredentista, fu un italiano, e anche a questo proposito non possiamo qui permetto di citare quando ha scritto il suo Corsini, il colloquio dei Gasperi Sonnino, non possiamo manicheisticamente distinguere i buoni e cattivi italiani i trentini ci aderivano o non aderivano all'irredentismo. C'erano degli ottimi però italiani che però, trentini che dicevano sì, io sono italiano, però la cittadinanza austriaca vero non la nego, vero, quindi fedeli all'interno dell'impero, la difesa vero è la posizione del resto in genere dei cattolici, difesa della nazionalità all'interno dell'impero. Anche lo stesso Enrici, vero, di certo fino al 14 non manifestò mai, vero, nei confronti del Regno d'Italia aspirazioni irredentistiche. Nella solitudine di Heiligenkreuz, in quella prigionia, certamente, vero, la stessa guerra ormai un po' alla volta si vedeva dove avrebbe sfruttato l'aspirazione a andare sotto l'Italia, ce l'avrà avuta di sicuro, però non possiamo parlare di un irredentismo. E credo che sia anche questo da tenere in considerazione per vedere come nel fare questa considerazione che nelle Enrici prevale questo senso di difesa della Chiesa dal giosefinismo austriaco sopra quella che è la stessa difesa della nazionalità italiana del Trentino. Grazie. Signora Saracco. Io vorrei fare una domanda sulla relazione del professor Benvenuti, in particolare sul clero italianissimo. È possibile, tracciando un piccolo identikit, cioè se c'è un'estrazione sociale prevalente o se ci sono stati dei seminari attraverso cui si sono formati in particolare questi sacerdoti o altre notizie di questo genere? Il seminario di Trento negli ultimi anni, vero, prima della guerra, erano chiamati addirittura garibaldini questi, vero? C'era stato nel seminario una penetrazione di idee nazionali, vero, erano state accolte con entusiasmo, insomma, dai giovani chierici, vero? E di qui lotte contro, vero, i chierici austriaci, e di qui preoccupazione da parte del vescovo, vescovo Enrici, che avrebbe voluto che questi seminaristi, quelli di idee tedesche che poi provocavano anche i chierici italiani con propaganda folcloristica, pipe con immagini, vero, di Asburgo, dell'Austria, c'era una provocazione politica, avrebbe voluto che andassero al seminario di Bressanone, preoccupato proprio di questi dissidi all'interno del seminario. Di certo, vero, il giovane clero, che poi venivano molti anche dalla campagna, penso, vero, di questo giovane clero, era vicino alle idee, vero, nazionali. E hanno una preoccupazione viva questa delle Enrici, vero, proprio nell'ambito del seminario, anche se nel seminario vi erano professori fido asburgici cremo e professori invece, non possiamo chiamarli regista, certamente molto avanti nell'idea dell'italianità del Trentino, come quel Vigilio Zanolini, vero, che è lui che scrisse poi il libro, vero, sul vescovo Enrici durante, vero, il periodo, vero, asburgico. Quindi, per concludere, direi che nel giovane clero trentino, vero, il giovane clero trentino abbracciava con un certo entusiasmo questa idea, era clerico nazionale. Da parte invece dei conservatori erano i clerico governativi, uso un termine usato nel colloquio di Castiglionino da professor Corsini. I clerico invece governativi erano conservatori e, pur difendendo di sicuro la cultura italiana, che si insegnava nelle scuole trentine e manzoni, e si insegnava Dante, certo la cultura italiana, però nessuna aspirazione, vero, un domani a unirsi alla madrepatria italiana da parte di questo clero conservatore. Erano fedeli sudditi austriaci, italiani dell'Austria, insomma, vero? Sì, purtroppo sì. Allora, due domande al professor Benvenuti, in cortesia. Allora, la prima, io volevo chiederle l'importanza delle casse rurali, che vengono creati, se non sbaglio, alla fine del secolo. In questa zona mi sembra siano delle zone dove hanno un'importanza notevole sia contro questa lecitazione di cui si è parlato prima. Volevo chiederle le loro posizioni per quanto riguarda la questione nazionale. Ora, io non lo so, erano presenti solamente casse rurali, cioè c'era anche una compresenza di casse rurali e di tendenze nazionali tedesche, o solamente c'erano solamente casse rurali con tendenze italiane? E la seconda domanda invece riguarda la presenza qua in Trentino del Partito Cristiano Sociale e la sua importanza all'interno del movimento cattolico, e poi volevo chiedere se questo Partito Cristiano Sociale è antisemita. Ecco, per quanto riguarda la prima domanda delle casuali, io penso che si possa riportare il discorso a quella concezione della coscienza nazionale positiva, vero, che era proprio del Partito Popolare dopo il 1805. Indipendenza economica del Trentino voleva dire anche difesa nazionale nello stesso tempo, vero? Ho visto anche in lettere che scriveva il De Gasperi a Lendrici che si sottolinea l'importanza, vero, di questo potenziamento economico del Trentino proprio per renderlo autonomo dal capitale tedesco, vero? In questo modo favorire la stessa istanza nazionale. Autonomia economica voleva dire anche, si traduceva anche in una maggiore libertà dava maggiore vigore di sicuro al sostegno dell'istanza nazionale. Questo problema, ecco, questo per quanto riguarda l'aspetto economico, no? Possiamo proprio concepire questa coscienza nazionale positiva proprio per l'aggancio di un'autonomia amministrativa ed economica del Trentino, salvaguardia della sua nazionalità all'interno dell'impero e quindi, vero, della legislazione austriaca. Per quanto riguarda il Partito Cristiano Sociale, le lotte fra cristiano sociali e conservatori riguardavano la parte, vero, tedesca della diocesi di Trento. Nella parte lì, vero, non mi sembra che siano stati atteggiamenti antisemiti, come invece successe, vero, in Austria, vero, nei 10 decanati ci fu questo contrasto e il vescovo Endrici più volte si preoccupò, vero, perché, vero, lui propendeva per i cristiano sociali, vero, perché anche il Partito Popolare era sulla questione dei cristiano sociali, però si preoccupava molto per il contrasto con i conservatori che non avesse portato a delle spaccature, diremo, all'interno, vero? Poi mi aveva fatto una terza domanda, vero? Questo riguardava i cristiani sociali e l'altro, vero, era invece sulle casse rurali. Posso, vorremmo fare io una domanda a Blasina e prima che brevemente però tornare su questo problema, il professor Benvenuti ha risposto molto bene che la dialettica tra forze cattoliche di tipo nuovo, cristiano-sociali e invece il tradizionale cattolicismo politico conservatore è un problema effettivo che si sviluppa in tutta la parte tedesca del Tirolo ed in questo caso senza distinzioni tra Tirolo meridionale e Tirolo settentrionale. In fondo, per quanto naturalmente profondamente influenzato dallo sviluppo di partiti di massa cristiano-sociali, lo sviluppo del Partito Popolare Trentino ha le sue radici in un cattolicesimo politico che si forma già antecedentemente a questo momento di esplosione dei moderni partiti cattolici di massa e che forse poi è piuttosto influenzato dai cristiano sociali sul piano anche organizzativo. Credo che per esempio De Gasperi, quando diventa deputato al Reichsrat, profondamente impressionato anche da questa grande macchina in grado di mobilitare le masse, in grado di creare un partito strutturalmente molto organizzato, e non so, ma forse qualche cosa di questa esperienza è poi stata travasata prima nel Partito Popolare Italiano e poi nella Democrazia Cristiana del secondo dopoguerra. E per quanto riguarda l'antisemitismo, in Tirolo naturalmente c'è un forte insediamento, parlo in questo caso di tutto il Tirolo, un insediamento ebraico importante che è quello di Merano, non mi pare che nella Merano prebellica ci siano dei casi particolarmente importanti di antisemitismo. Per quanto riguarda Trento c'è una bella testimonianza sempre di Enrico di Ernesto Sestan, negli anni in cui Sestan viveva a Trento da ragazzo, che ho già ricordato l'altro giorno, c'erano due famiglie ebree in città. È vero che c'è un antisemitismo o negli Juden, ma nella maggior parte dei casi l'antisemitismo naturalmente è anche determinato dall'effettiva esistenza di questo problema. Anche qui delle forse considerazioni, ricordo, io non ho mai studiato direttamente il problema, tanti anni fa, di avere letto un articolo di Arturo Carlo Iemolo dove diceva che c'erano state certe prese di posizione antisemite nel giorno De Gasperi, che probabilmente erano da ricollegare, però erano naturalmente anzitutto mantenute sul piano di carattere puramente teorico e nello spirito piuttosto del pensiero di Weger, di questo tipo di antisemitismo fondamentalmente sociale, dei cristiano sociali austriaci, e che era anche piuttosto lontano da matrici di tipo ideologico, di tipo religioso, per non parlare naturalmente di quelle razziali che erano completamente assenti. E anche questa è un'indicazione del come qualche volta certe idee, anche quelle negative che sono nell'aria, trovano un riflesso, oppure anche parziale assorbimento. A Blasina volevo chiedere se non avevo in effetti mai pensato, per quanto riguarda questo episcopato di Nagel, di un momento di pressione per lo sviluppo anche a Trieste di questo cattolicesimo politico di tipo moderno, del movimento cristiano sociale. Questi tentativi hanno avuto successo, hanno avuto seguito, sono stati anche vanificati un po' dalla breve durata. Esatto, sì, fondamentalmente è questo. C'è nato al fatto che tra il tempo di provare a farlo e gli effettivi riscontri di questo tentativo non avvengono ciò che era stato sperato, in sostanza, il movimento che non riesce a far breccia, non riesce ad avere una forte diffusione. L'aspetto interessante è che questo tentativo avviene anche verso il mondo sloveno, cioè è duplice, cerca di, anche in questo si vede un tentativo di ricompattamento dei cattolici in senso lato su due filoni che però abbastanza simili in questa ispirazione cristiano sociale, perché rispetto al mondo sloveno c'era il tentativo di spezzare quella unione tra sloveni, anche sacerdoti cattolici, e società liberale di Linz, che dalla fine del secolo in realtà si era venuta a creare con questa alleanza sul piano della difesa nazionale, per cui rispetto all'intransigentismo cattolico diffuso è diventato, diciamo, mentalità comune dei sacerdoti. A Trieste invece per la difesa nazionale ci tendeva un po' da parte dei sacerdoti sloveni a stemperare le polemiche e ricompattarsi. Invece Nagel cerca di spezzare questa dipendenza liberale, questa forte unione tra sacerdoti e non ci riesce, cioè c'è una serie di sacerdoti, tra cui Huckmar, che è uno destinato una grande mente del cattolicesimo sloveno triestino, che però non riesce a decollare nel momento in cui c'è il richiamo ai cattolici senza appunto avere più contatti con i liberali, a questo cattolicismo intransigente che però non riesce a far breccia, secondo i giornali eccetera, ma poi chiudono tutti, così come avviene anche con gli italiani. Cioè ci sono sacerdoti esposti, Buttignoni e vari altri, ma hanno una forte, io neanche lo studio direttamente la stampa, ma la Catalan sì, c'è questo forte, si traccia da, tipicamente collegata a Vienna nel Partito Cristiano Sociale, ma non riesce a sfondare, non riesce a far breccia. e a differenza di altri cattolici italiani, loro stemperano anche il discorso nazionale, perché appunto cercano un discorso più complessivo, mentre ci sono altri giornali cattolici, altri sacerdoti, invece molto più Mioni e altri, insomma, sono molto più spinti sulla difesa nazionale italiana, no? Però non decolla, diciamo, non riesce a... E poi in Agava viene il 10, arriva Carlini, che appunto inaspettato, perché nessuno pensava più di nuovo un vescovo sloveno, tutti si aspettavano un tedesco, finalmente un italiano, da parte italiana, invece non arriva. Nagel va via, Carlini sul piano politico-sociale si ritira completamente, quindi anche questi fermenti, queste iniziative, diciamo, si muoiono, insomma, si fermano. Professoressa Cattaro. Domando scusa, prometto che poi sto zitta e non vado più. Mi ho portato via la parola prima. No, per carità, io la chiedo diritto, sono io che lavoro. Ecco, volevo, riagganciandomi al discorso tra voi due, e fare una precisazione. Effettivamente una sua domanda è andata dispersa. Dunque, intanto tutta l'attività delle casse rurali deve essere vista integrata con quella veramente mirabile organizzazione e rete di cooperative di produzione e consumo, perché allora si salta il discorso, che è veramente ammirevole, è una rete che si realizza in tutto il Trentino di matrice cattolica e ha un ampio consenso popolare. Però ecco la domanda che era andata perduta nel discorso. La prima idea dell'organizzazione di quello che allora si diceva credito a buon mercato, ecco, è di matrice liberale. È matrice liberale. Difatti l'organizzatore primo e il teorico primo è Vittorio Della Bona, con delle opere anche a stampa. Non solo, mi pare cosa si chiamava la Banca Popolare nel Trentino, la Banca Popolare era amministrata dai liberali nazionali. È di matrice liberale. È di matrice liberale. Subentra la popolazione, ma senza conflittualità, sia chiaro. Ecco. Però le prime matrici sarebbero queste. Adesso si è. Arriva il microfono. Sentendo le due relazioni, ho notato alcune, appunto, diverse suggestioni e analogie circa quanto accade appunto ai rapporti tra la Santa Sede e le chiese locali in queste zone, appunto, di particolare incontro tra culture e lingue diverse. Anche perché ho avuto modo di poter guardare alcuni fondi archivistici al Vaticano, la stessa serie di quelle che ha potuto guardare il dottor Blasina, differenti che si riferiscono all'Alsazia e alla Lorena nel periodo che va dal 1879 ai primi anni del Novecento. Per cui senza dover appunto fare una relazione, però forse può sembrare utile appunto dar conto di alcune appunto, indicazioni che possono uscire dalla lettura di questi documenti. Un primo gruppo di documenti si riferiscono a una questione relativa alla nomina di un coadiutore vescovo a Monsignor Res, che era stato il vescovo che appunto in Alsazia aveva vissuto sia il periodo appunto precedente al 1870 che quello seguente. E, arrivano appunto alla Santa Sede una serie di ricorsi e contestazioni circa la notizia che appunto Monsignor Res agisca in concerto con il governo tedesco per ottenere la nomina a appunto coadiutore in diritto appunto di successione a il cappellano militare della guarnigione prussiana a Strasburgo, ecco. Quindi, e queste voci del clero francese, di lingua francese, giungono attraverso un personaggio particolare che è il teologo dell'ambasciata francese presso la Santa Sede, Courtin. Ecco, queste voci appunto si poi concretizzano in un memoriale che appunto Guthrie presenta e che viene riassunto dal cardinal Arpolla in modo molto puntuale per presentarla alla congregazione degli affari ecclesiastici straordinari. Forse è interessante questa relazione perché definisce le qualità del vescovo diciamo, ideale per gli alsaziani. Sarebbe attualmente innanzitutto alsaziano e non straniero, non forestiero, con zelo e quindi attento agli interessi religiosi, saggio però e quindi anche colto, perché una delle accuse che si fa al cappellano militare è di non conoscere il latino, di essere ignorante, e poi però anche prudente. Cioè non è una richiesta di tipo estremistico, di rivendicazione, si sottolinea che questa prudenza significa, come ha fatto per esempio, e qui si indica appunto anche una preferenza specifica, il direttore del seminario maggiore di Strasburgo, che aiutare e fare in modo che nelle cariche del clero alsaziano entrasse anche appunto del clero di origine tedesca. Quindi la prudenza significa poi dei passi reali di mediazione tra i diversi. È interessante anche relazione anche la sottolineatura che un vescovo straniero creerebbe una ferita, basta quasi un'analogia con altre proteste, cioè una ferita per l'amore nazionale strettamente congiunto al sentimento cattolico, esponendolo agli influssi protestanti così come voluti dal governo. Mi ha colpito, anche sentendo alcune relazioni di ieri, un passaggio in cui si chiede attenzione per l'autonomia religiosa dell'Alsazia, mentre, dice testualmente, si sta per rivendicare la sua autonomia politica. Quindi c'è questa questione che rimane sospesa da parte della Santa Sede, perché Stumpf, che sarebbe il candidato ideale proposto da questo gruppo di persone, diventa prima amministratore apostolico e solo più tardi coadiutore, e poi appunto ottiene. Nel frattempo però, nel 1881, un altro sacerdote, un canonico della cattedrale, continuava appunto a esprimere le lamentele per la richiesta il vescovo Res ha fatto la Santa Sede di autorizzare le preghiere pubbliche per l'imperatore, e questo era stato un altro elemento appunto di frizione. E è interessante che la Santa Sede dà il beneplacito, sia pure stendendo lui per il tipo di preghiera che bisogna recitare appunto. Non solo, ma anche nell'81 si mette in relazione, così fa appunto il nunzio a Monaco, la nomina a coadiutore dell'anziano vescovo di Metz, di un giovane coadiutore, con anche lui il diritto di successione, dicendo che questa nomina dovrebbe aprire la strada a risolvere il problema appunto del vescovo di Strasburgo. Ecco, la cosa interessante è che fino all'87 Stumpf riesce appunto lentamente a conquistare questa sua posizione, appunto l'accesso al ruolo di vescovo. Ma nell'87 lui scrive un altro rapporto da poco di ringraziamento ad Arpolla, nel quale dice che è un grande errore del governo tedesco ritenere che la Chiesa cattolica si opponga al governo tedesco in quanto tale. Si oppone la Chiesa cattolica all'influsso protestante e non ai cattivi rapporti col governo. E ancora allora fa un appello perché non ci sia un vescovo tedesco in Alsazia, cioè la nostra terra, il nostro paese. Cioè, io posso, faccio il possibile secondo coscienza per venire incontro alle richieste del governo, ma non posso prendere misure contrarie al bene religioso del nostro paese. Nell'87 ancora si esprime, da 79 questa, diciamo, polemica appunto. Mi pare però che è interessante notare questo atteggiamento della Santa Sede negli anni 90, in cui diventa vescovo Adolfo Fritzen, e quindi l'elemento appunto tedesco sembra più conciliante da parte anche della Chiesa, tanto è vero che se nel 1894 alcune richieste del governo appunto tedesco di aprire una facoltà di teologia all'Università di Strasburgo vengono respinte, quando nel 1898 il rapporto tra Chiesa e appunto il Impero tedesco è cambiato, non c'è più il Kulturkampf, è cambiato il rapporto, allora si accende invece a delle trattative. Si accennano delle trattative che appunto condotte a Roma dallo Erwin, ed è interessante notare che sembra, appunto da alcuni reclami, che il centrum tedesco non fosse al corrente di queste trattative, appunto per risolvere anche a vantaggio della Chiesa, così ragionano appunto i cardinali, questo contenzioso sulla possibilità di aprire una facoltà di teologia, questione che poi viene risolta nel 1902. Quindi, ecco, questa vicenda credo che possa, ha molti aspetti interessanti di appunto comparazione, non necessariamente di analogia, ma certo di comparazione, sia per aspetti particolari. Innanzitutto per riflettere, per esempio, sul rapporto tra identità regionale e nazionale, sia per riflettere sulla questione linguistica, così come viene vista dalla Chiesa. Rampolla, in un certo passaggio, dice: come si risolve il problema delle lingue nei paesi in cui ci sono una diversità di lingue? Predicate tutte le lingue in modo più intenso possibile, però ci sono le condizioni politiche, ecclesiali, generali che determinano una scelta o un'altra a favore di un indirizzo. E poi c'è anche la questione generazionale. Cambia la situazione politica in un paese, cambia l'atteggiamento della Chiesa, ma anche in base alla nuova generazione, a un nuovo processo, a nuovi interlocutori. L'ultima cosa che volevo accennare come elemento più interessante, proprio quella che prima appunto Brasina ha detto, oscillazione della Santa Sede, che però si manifesta in questo modo che è un po' strano, cioè mutano le scelte con il mutare della situazione politica, non muta il metodo con cui le scelte vengono fatte e i principi a cui le scelte devono obbedire. E in questo senso il principio è a favore di una moderazione, di una pacificazione dell'uomo, della situazione, non è certo verso l'acutizzarsi delle crisi locali. E qui andrebbe appunto approfondito una citazione che fa spesso Emma Fattorini circa l'azione della Chiesa. È una citazione di Smith, e dice: con ogni mutamento di situazione politica cambiano apparentemente tutti i principi, all'infuori di uno, è quello della potenza del cattolicesimo. E poi dice: il cattolicesimo contiene tutto, tutti gli opposti, in un momento sembra del tutto intransigente, in un altro momento sembra disposto a cedere rispetto alle pressioni. Andrebbe appunto, potrebbe essere una questione interessante approfondire anche questa questione, volendo vedere questi grandi scenari che appunto possono. Grazie. Grazie per questo contributo alla discussione e forse a questo punto una rapida traduzione in riassunto è necessaria. Credo che il discorso zusammenfassend handelt sich um einen Diskussionbeitrag und keine Frage. Und ich muss vielleicht etwas übersetzen und zusammenfassen. Herr Champagne hat vatikanische Quellen über Elsass Lothringen gesehen. Ich habe so einen, wieder eine vergleichende Perspektive vorgeschlagen. Und ich werde jetzt die Punkte zusammenfassen. Erster Punkt, die Frage der Ernennung eines Weihbischofs mit Nachfolgerecht in Straßburg und wie diese Frage in Rom behandelt wurde. Es gab verschiedene Protesten aus Frankophonen oder Frankophilen, katholischen Priester Elsass, die in Rom eingetroffen sind und die den Heiligen Stuhl durch die Vermittlung des Theologen der französischen Botschaft mitgeteilt wurden. Und aus diesen Protesten kommt deutlich hervor, so das Gesicht, die Visionomie eines möglichen Weihbischof für diese Diözese. Der Weihbischof sollte Elsässer sein, die Anwesenheit eines deutschen Weihbischofs wäre eine Wunde für das Land gewesen. Er musste fromm sein, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Von guter kulturellen Ausbildung, vorsichtig und ein Anhänger einer religiösen Autonomie für die Diözese, die notwendig war in einer Zeit, in der man so oft von politischer Autonomie sprach. Und zweitens, in diesen Quellen findet man, man fragt den Heiligen Stuhl, ob man in elsässischen Kirchen offen für den Kaiser beten durfte oder nicht. Dann kommt eine dritte Frage, die Frage der Ernennung eines Weihbischofes in Metz. Im Laufe der 90er Jahre, aus diesen Quellen hat der Champagne entnommen, dass der Heilige Stuhl bereit als früher ist, die sozusagen die, was die Deutschen vorschlägen, anzunehmen und das nicht nur als Folge eines besseren Verhältnisses zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich, sondern auch als Folge des Nachwuchses einer neuen Generation in Elsass, die eine ganz verschiedene Auffassung als die frühere Generation hat. Und auch, ich meine, auf diesem Rahmen entsteht die Bereitschaft, auch in die Bereitschaft im Heiligen Stuhl mit dem Deutschen Reich über die Frage der Errichtung einer theologischen Fakultät in Straßburg einzugehen. Ja, und aus dem ganzen Bereich dieser Quellen kann nach der Auffassung von Herrn Champagne auch eine Schlussfolgerung gezogen werden, und zwar, dass im Ganzen versucht man im Vatikan zu einer Versöhnung, zu einem besseren Verständnis zwischen Elsässer, Franzosen und Deutschen in diesem Gebiet zu kommen. Non so adesso chi vuole, non so se ci sono anzitutto magari delle approfondimenti da parte dei relatori su questo tema e poi eventualmente altre domande. No, mi sembra molto interessante il fatto che sembrerebbe visto degli stessi fondi questi problemi. Certo meriterebbero, no, gli studi mirati e approfonditi, ma gli aspetti che le suggestioni sono questi, cioè Innanzitutto quella definizione di vescovo ideale l'ho presa dal posto zero saggio prudente, sono proprio le caratteristiche di lunga durata che durano ben oltre la prudenza, sotto il frontale lo vescovile, lo zero e l'essere preparati. Così come molto interessante il discorso di Stumpf, Chiesa Cattolica mai contro l'autorità, difficoltà a far capire il ruolo di fedeltà incarnato dalla Chiesa verso i propri fedeli, fin tanto che non è la Chiesa stessa o il suo insegnamento ad essere preso di mezzo, allora a quel punto scatta un meccanismo, anche questo è un meccanismo consueto, non c'è nessun problema a essere sudditi di un'altra nazionalità, purché vengano rispettati i diritti o consuetudini. E soprattutto il discorso più importante, secondo me, hanno ancora un accenno rispetto al discorso di Rampolla, predicate, largheggiate. Questa è una cosa che ho trovato anch'io, in quella discussione che viene fatta a Roma in congregazione sul problema dello sforo, contemporaneamente si fa una sessione sulla predicazione nei paesi misti, prendendo anche un paese qua del Trentino, la diocesi di Trieste, altre zone in Ungheria, sono ne quello ricordo di persone. E dal verbale, che chiaramente si è acciato dall'altro problema che è più importante, ma c'è questa tendenza, si largheggi, largheggiare, predichi, prete, predichi due volte, tre volte, dica due, tre mesi, cioè non si può. E questo però in realtà, nella realtà poi locale si sbatteva sul fatto che non era così semplice, perché i preti venivano visti molte volte in un verso o nell'altro come già di per sé un po' pregiudicati, e molti di loro si rifiutano di predicare in uno o nell'altra lingua, no? Però come volontà c'è questa, cioè non soffermatevi dietro al problema di una predicazione, cos'è fare una predica in più, una messa in più, no? Quindi c'è questa tentativo di smorzare, di andare incontro senza, questo secondo me è molto moderno, molto, sembra un atteggiamento attuale rispetto ai metodi di giudizio che si cercò. E l'ultima cosa, appunto, è il discorso generale sui vescovi come moderatori. Anche se dopo, ad esempio, per quelli del litorale, l'immagine che abbiamo noi è molto deviata da quello che è stato propaganda e fama successiva, in realtà questi vescovi siano, perché abbiamo detto prima qual era il loro disegno ideale, ma esprimono comunque la pacificazione, sono dei moderati in fondo, non vanno certo in cerca di punte aguzze, di motivi di scontro, ma cercano di dopo ognuno in riferimento ai propri problemi, ognuno in riferimento a ma c'è questa tendenza costante, mi sembra, che anche del ruolo vescovile, insomma. Ich hätte eine Frage im Zusammenhang mit dem, was Frau Gabari gesagt hat, nämlich, dass der wesentlichste Streitpunkt der zwischen der Kirche und dem Staat war, dass die Bischöfe in erster Linie versuchen mussten, ihre Position gegenüber dem Staat zu bewahren und dass vor allem die Bischöfe hier in Trient eine integralistische Position eingenommen hätten. Ich habe nun zwei Fragen. Die eine, ob aus dieser Grundposition heraus eine Zusammenarbeit mit den deutschsprachigen Priestern in Tirol sich besonders angeboten hat. Man darf ja nicht vergessen, dass der Bischof Kraft seines Amtes ja auch im Innsbrucker Landtag saß. Und die zweite Frage, ob diese integralistische, innerkirchlich integralistische Position auch für die Bischöfe im Küstenland zutrifft oder ob die eine andere Position eingenommen haben. Professoressa Gabari, mi pare, non è qui in questo momento. Si scusa, intanto sì, sì, no, certo, no, ma intanto magari, certo. La domanda che è stata fatta dalla professoressa Gabari, ma però direi nello stesso tempo anche a maggior ragione i relatori, e il dottor Rubens ci ha sottolineato come in particolare dalla professoressa Garbani sia stato sottolineato questo atteggiamento integralista da parte dei vescovi trentini che porta frequentemente a dei conflitti con l'autorità statale. E allora le due domande riguardano le due diverse zone che sono state prese in considerazione per la professoressa Garbani e il professor Benvenuti: se si sia realizzata una collaborazione, una cooperazione con il clero, con l'autorità religiosa tedesca, e questo oltretutto è tanto più facile in quanto le massime autorità religiose siedono nella dieta di Innsbruck, e invece per quanto riguarda la relazione di Blasina, se si può dire che questo atteggiamento integralista notato nel Trentino trovi ripercussione anche nel litorale. Posso rispondere? Per quanto riguarda vero, una collaborazione stretta fra il vescovo Riccabona e il vescovo di Bressanone Gasser, alla dieta di Innsbruck si verificò una stretta collaborazione in occasione della Protestanten Patent. La Protestanten Patent ebbe come riflesso il sorgere di un movimento della Glaubensheimheit, vero, l'unità di fede, e i due vescovi di Trento e di Bressanone si trovarono uniti in questa, vero, difesa dell'unità dei cattolici, e qui ci fu una stretta collaborazione tra Trento e Bressanone. Questa Glaubensheimheit, questo movimento per l'unità di fede, che voleva dire tutti i cattolici, nessun protestante, nessun ebreo, vero, difesa della purezza religiosa, naturalmente era, vero, più forte questa lotta nella parte tedesca, vero, del Tirolo, che nella parte italiana, proprio per la presenza a Merano, per esempio, di questi anche possedimenti proprio di protestanti, vero, che il vescovo di Bressanone avrebbe voluto togliere addirittura, vero, il possesso di campi, di case, di quartieri, ecco, di abitazioni, insomma, vero, a questi protestanti. Qua nel Trentino la lotta per l'unità di fede fu più a parole che in fatto, perché, vero, non risulta che ci siano state, vero, persecuzioni o in qualche modo emarginazioni di queste minoranze, vero, protestanti che potevano esserci ad Arco e nel Tesino, no? Collaborazioni con, io ho visto all'archivio della Curia, corrispondenza fra i vescovi di Bressanone e di Trento, vero? Quando arriviamo alle Entrici i rapporti si fanno un po' più difficili col vescovo di Bressanone. Siedono ambedue i vescovi alla dieta di Innsbruck, intervengono su problemi scolastici e problemi religiosi in stretta collaborazione, di sicuro. Il vescovo di Trento, Riccabona, reclama l'autonomia del Trentino con una frase abbastanza efficace, dice: cantano meglio due usignoli in gabbie diverse che nella stessa gabbia, perché fanno la gara. Quindi dati al Trentino un'autonomia e ci sarà uno sviluppo generale, vero? Ecco così. Il vescovo di Bressanone, vero, non contrasta mai in queste posizioni anche autonomistiche, mentre da parte magari di altri deputati, lingua tedesca, la dieta di Innsbruck, potevano esserci delle posizioni discordanti con queste istanze economiste. Da parte del vescovo di Bressanone non ci fu mai, però ci fu una abbastanza collaborazione. Questa collaborazione viene un po' a mancare nel corso dell'episcopato del vescovo Entrici, fino ad arrivare anche a una fase abbastanza acuta nel tempo della guerra, quando gli oli sacri li benedice il vescovo di Bressanone e il vescovo Entrici dal suo internamento, diremo, nella abbazia di Heidelberg, Crolis scrive delle lettere sofferte proprio al Vaticano, però dicendo, vero, mentre io sono qua e non posso quindi, vero, arrivare a venire, gli oli sacri mi sono stati qua, invece che vero, la CIA, io avevo delegato il vicario generale a questo, invece mi trovo, vero, quasi espropriato dal vescovo di Bressanone. Una certa tensione ci fu in quel periodo della tragedia del Tristi, però per quello che vi risulta, altrimenti ci fu una collaborazione, ripeto, molto stretta al tempo di questa Glaubensheim, questa unità di fede, questa lotta contro la protestante patente, e poi una collaborazione in genere su problemi della scuola e della religione. Questo alla dieta di studio. Ho esaminato le scenografiche periste per quel periodo e ho trovato più volte in consonanza, vero, il vescovo di Trento con col vescovo Glaser, vero, su questi problemi. E anche come difesa, vero, da questi atteggiamenti giosefini, non fu da meno anche il vescovo di Bressanone, vero, nel volere, vero, una libertà, insomma, della Chiesa, specialmente per quello che riguarda la scuola, insomma, l'ispezione scolastica, vero, governativa, pesava al vescovo di Trento come al vescovo di Bressanone. Si voleva che la Chiesa, vero, avesse il vescovo come ispettore delle scuole e una libertà, quindi, di insegnamento nel senso di dell'antiliceamento cattolico. Sì, io più che di integralismo parlerei di intransigentismo piuttosto come categoria, perché l'integralismo è una categoria più recente. Intransigentismo come rifiuto della società moderna nelle sue articolazioni, che ha spezzato quel vincolo di cristianità che fino ad ora era stata. Questo si trova in molti vescovi, quasi tutti i vescovi triestini, anche se hanno alcune peculiarità, per dire, alcuni curiosi episodi al momento della fine del concilio sull'infallibilità, sono questi che restano abbastanza, c'è tutto questo settore di vescovi, che Strossmayer è uno che non partecipa alla votazione sull'infallibilità, ma c'è questo dato diffuso. Ad esempio, Nagel, il discorso di Cristiano Sociale è strettamente connesso a questo, cioè c'è tutta una polemica antiliberale della società liberalesca. Ancora curioso è Magnic, che fa il vescovo di Veglia, quindi di croati, ma noi non lo vediamo, e quando lui è ancora a Gorizia, lui fonda un giornale, Rimski Katolik, il cattolico romano, che appunto rappresenta quella corrente del cattolicesimo sloveno che vuole spezzare questa unione tra liberali e cattolici, proprio a rivendicare l'alterità tra cattolici e liberali. Cioè, quindi c'è un forte recupero e lui finisce vescovo, ma ancora prima. Ecco, la tendenza forse per il fatto, come ho detto, che c'è questa consolidata presenza, egemonia liberale, ma anche tante confessioni storiche, la comunità ebraica molto diffuse da secoli ormai, c'è casomai nei toni una certa pacatezza, cioè non troviamo i toni che troviamo, che sono le pastorali dei vescovi italiani, che sono durissimi. In questo c'è più, diciamo, un'attenzione forse, ma gli schemi di fondo mi sembra siano comuni. Ma io volevo porre due domande a Blasina, nate da queste due questioni nate all'atere della relazione che lui ha fatto. La prima era riguardante la presenza della massoneria a Trieste. Blasina diceva che la presenza a Trieste di un partito che italiano, ma al tempo stesso anche liberale nazionale, quindi la difesa dell'italianità triestina, assumeva toni anticattolici. Ora, dietro questa polemica anticattolica è possibile vedere una azione delle logge massoniche a Trieste. Dico questo perché poi successivamente nella relazione, non so se il nunzio apostolico o il vescovo aveva in qualche maniera rimpicciolito, diminuito il ruolo che eventualmente la massoneria poteva aver avuto in questa difesa della nazionalità italiana. Dico questo perché nella storia della massoneria di Mola, e qui chiedo anche eventualmente l'opinione del professor Ara, non mi sembra che ci siano dei riferimenti alla massoneria triestina o quantomeno all'attività di logge massoniche. Questo poi nascerebbe anche il problema eventualmente del rapporto di questa massoneria triestina con le logge austriache, quindi con le logge presenti anche all'interno dell'impero austro-ungarico. La seconda domanda era sulla, sulla, sui rapporti fra cattolici e liberali, che Blasina ha toccato ora anche nella, in questa seconda, in, nell'ultima replica alla, che ha Aurora fatto, cioè il problema della egemonia che i liberali avevano esercitato, esercitavano anche sui cattolici. Allora mi chiedo se non è possibile parlare per esempio di qualcosa di simile al, al Partito Gentiloni anche nella, nell'area triestina, o se non è possibile parlare di gentilonizzazione dei cattolici come questi accordi si verificavano a livello di singoli collegi elettorali. Questo è un problema che la storiografia italiana, la storiografia che si occupa in particolare di analisi elettorale, sta cominciando a toccare. Sono stati fatti alcuni sondaggi in alcuni collegi, sia del centro, del nord, anche del sud Italia, e lì la realtà poi concreta, effettiva, dei rapporti fra cattolici e liberali, anche alla luce poi degli accordi, dell'accordo con i giudicani, ha avuto una serie anche di, così, di verifiche puntuali. Allora io volevo chiedere a Blasina, vi ha parlato delle elezioni di un cattolico nel 1907 in un collegio. Ora, non so, chiedo anche a lui, vorrei sapere se sono stati fatti degli studi sui singoli, sulla, sulla realtà politica triestina, anche verificando volta per volta quelli che sono stati i risultati elettorali e il livello della rappresentanza politica. Allora, sulla storia Trieste girerei volentieri la risposta al professor Lara, che ne saprà molto più di me. Il discorso che comunque c'è, vorrei dire, c'è una serie di una forte presenza, insomma. Non è un discorso di italianità anticattolica, è un discorso di italianità anti-ecclesiastica verso quel tipo di conduzione ecclesiastica, verso quel sostegno che ho cercato di illustrare, dato alle popolazioni slovene croate, quindi un po' diverso, perché da parte libera nazionale e da parte loro anche dei massoni che lo erano, c'è chiaramente l'avvertenza che anzi aveva un clero italiano che educhi anche in chiave nazionale e ben funzionare al proprio disegno, quindi c'è il tentativo più volte fatto di istituire corsi di studio, di polemiche contro il seminario di Gorizia, accusato di essere un copo panslavista, eccetera eccetera, perché c'è il tentativo di fare un clero, e esiste anche un clero in città che appunto sia perché è legato proprio sotto forma economica e di ruolo ai patronati del comune, ma anche più in generale, perché ad esempio c'è un problema, ad esempio c'era una vecchia, c'è una delle accuse fatte al vescovo Dobrila, che ricordato come il padre della rinascita croata in Istria, era quella di aver lasciato un testamento per il quale c'erano delle borse di studio sul suo testamento a patto che i chierici frequentassero il ginnasio statale, cosa che significava fare le scuole in tedesco, e questo lui l'aveva fatto e per favorire chiaramente i croati sloveni lo facessero, è per un discorso di imparzialità, perché se no fare il ginnasio italiano, coloro che uscivano dal ginnasio italiano erano su un'altra sponda ben più, diciamo, impregnati di valori nazionali che non venivano ritenuti conformi allo spirito. Per il discorso delle elezioni, sul fatto che Gentiloni a Trieste c'è proprio nel libro di Valdenit che tratta bene questi problemi, proprio un paragrafo si titola Un patto Gentiloni a Trieste, nel senso che anche a Trieste si verificano tutte cose da analizzare minuziosamente, ma ci sono queste forme di accordo. Mentre il deputato che citava non è di Trieste propriamente, ma del Collegio dell'Istria nord-occidentale. Però sicuramente anche qua ci sono forme di alleanza, ecco, di. E sugli studi che io così a memoria so che ce ne sono per i periodi successivi, per quegli anni là studi di geografia elettorale, diciamo, non so se ce ne sono, francamente non lo so. Altre domande? Ich habe eine Frage zur Priesterausbildung. Verlief die völlig ohne staatlichen Einfluss? Hat der Bischof die völlig alleine geleitet oder gab es da nicht Änderungen zwischen 1870 und 1914? La domanda riguarda il problema della formazione del clero in questo periodo dei preti e se si può ritenere che tutto sommato anche attraverso queste diverse fasi episcopali questo continui senza modifiche oppure se ci sono stati dei mutamenti del circuito di risposta dovrà riguardare i due settori. Sì, ecco. Per quanto riguarda il seminario teologico di Trento, sotto i vescovi della Bona, vero, e prima Rita Bona, poi della Bona fino al Vallucci, la formazione avveniva sotto un controllo stretto da parte, vero, del vescovo stesso di persona, vero, che attingeva informazioni perché il governo chiedeva nell'assegnare anche una specie di borsa di studio, cioè i contributi a questi seminaristi, gli atteggiamenti di lealtà nei confronti dello Stato, e questo era rigido. Col vescovo Imbrici incomincia all'interno, vero, del seminario a incomincia la propaganda proprio nazionale, e di qui le lotte a cui ho accennato prima tra chierici, vero, tedeschi presenti qua a Trento al seminario, vero, perché c'erano i 10 decanati tedeschi che facevano parte della diocesi di Trento e quindi i vescovi di quelli non andavano a Bresanone ma rimanevano nel seminario di Trento per i continui contrasti con i vescovi. A questo proposito è interessante, vero, nel 1913 scrive al Papa il vescovo Enrici chiedendo la separazione dei decanati tedeschi dalla diocesi di Trento, il loro inglobamento nella diocesi di Bresanone, proprio per risolvere, oltre che altri problemi di scuole, di insegnanti italiani e tedeschi nelle zone di Stirigui, e quindi appartenenti a questi decanati come Lana, Bolzano, Verano, eccetera, anche, vero, all'interno del seminario di Trento. Perché, vero, si voleva che, questo è stato sempre, vero, il pallino che aveva proprio sempre in mente l'idea, vero, fissa di Enrici, che i vescovi, che i chierici tedeschi frequentassero il seminario a Bresanone, per mettere tranquillità e pace in questo seminario dove erano continui contrasti, non tanto fra professori, anche se i professori venerano di tedeschi e di lingua tedesca e di lingua italiana, ma proprio fra i chierici stessi. Quindi direi che fino a tutto l'Ottocento, insomma, non ci furono problemi all'interno del seminario teologico per questioni nazionali, invece incominciano queste questioni proprio durante l'episcopato del vescovo Enrici. Un'ultima osservazione. Ancora al tempo dell'episcopato del vescovo Riccabona ci fu, vero, questa preoccupazione di separare i decanati tedeschi e inglobarli nella diocesi di Bresanone. Ma questa era la richiesta di Bresanone perché più forte poteva essere allora la resistenza alla penetrazione italiana verso il nord. Da parte invece del vescovo Riccabona c'era la tendenza a conservare, dopo l'opposto delle Trici, i 10 decanati tedeschi all'interno della diocesi di Trento per conservarvi l'impronta tedesca. E qui siamo proprio all'opposto delle Trici. Da una parte le Trici favorevole a staccarli questi decanati proprio per l'italianità della diocesi, da parte del vescovo Riccabona conservarli dentro per conservare proprio questo Deutschtum, questo nazionalismo tedesco all'interno della diocesi. Forse se posso chiedere ancora una cosa, credo che la domanda avesse però un contenuto più generale, cioè non si riferiva solo all'aspetto nazionale della formazione del clero, ma più in generale all'aspetto della formazione religioso, culturale, pastorale del clero, se ci sono delle cesure, cioè se ci sono dei mutamenti. No, non è che si noti. E col vescovo, ecco, Enrici, il vescovo Enrici teneva una cattedra vero, di sociologia cristiana praticamente, vero? E c'è una maggiore apertura nella formazione del clero anche al problema sociale, ciò che mancava nel corso dell'Ottocento negli altri, è un insegnamento. Ma io penso che non ci siano state differenze tra quanto veniva insegnato nel ginnasio, nel seminario teologico di Trento o in quello di Trieste. Questa è una domanda che rivolgo, vero, al professor Blasina. Non credo nel corso degli studi, vero, perché una uniformità ci doveva essere, no? Come c'era l'uniformità nei ginnasi tedeschi, che addirittura quando si leggeva un ordine di Orazio dicevano a Budapest o a Vienna la stessa ordine di Orazio veniva letta nel ginnasio di Trento, però trovate la presenza. Così penso che anche un'uniformità di studi era nei vari seminari teologici, sia del Tirolo come Trieste o del Litorale. Sì, io credo che il quadro sia questo. Anche in Trieste c'è il problema che il seminario in realtà non c'è, perché vanno tutti a Gorizia, e Gorizia che funge da seminario centrale. Con Pareto c'è questo seminario minore comune, insomma, adesso non mi soffermo. C'è il problema a Trieste cronico, che sono pochi sacerdoti in sostanza. E anche un po' rispetto alle cose, cioè, succede anche ad esempio che in Istria ci sono molti sacerdoti della Boemia che vengono, imparano la lingua, così c'è questa zona molto mista, ma sì, tendenzialmente c'è uniformità tra i cioè, questo va visto secondo me sul lungo periodo, questi mutamenti. Comunque dal punto di vista nazionale sicuramente c'è la tendenza al clan, questo sì, che si formano i gruppi già al seminario che poi continuano, eccetera, no? Da noi quando finisce la guerra comincerà un'altra storia, fino ad arrivare prima alla seconda guerra mondiale, cioè c'è proprio una contrapposizione con esiti molto anche duri e drammatici. Credo che siamo arrivati, se non ci sono altre domande, allora ormai possiamo e dobbiamo interrompere i lavori. Forse proprio due punti a conclusione. Uno, abbiamo visto anche quanto profondamente i problemi, i contrasti nazionali siano penetrati all'interno della Chiesa. D'altra parte però non bisogna dimenticare che per tutto un insieme di ragioni che in parte sono proprio anche da ricondurre alla reazione, e in questo caso senza differenziazioni, del cattolicesimo culturale, politico e liturgico alla presa italiana di Roma, il cattolicesimo politico ha pur sempre rappresentato, così come anche la Chiesa Cattolica, un forte elemento di sostegno dei valori complessivi, politici, sovranazionali, sociali della monarchia liturgica. E questo, al di là delle differenziazioni, anche dei discorsi giusti sulle identità, è un aspetto che va sottolineato, anche perché, riconducendoci a quanto si era detto nelle giornate precedenti, fra un sentimento di lealtà politica verso lo Stato e quello di una difesa da un punto di vista culturale della propria identità, perlomeno Alcide De Gasperi, con lui tanti altri, non sentivano assolutamente alcuna contraddizione. E l'altro aspetto che forse a conclusione si può sottolineare, si è parlato tante volte del significato che ha il passaggio alla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visto come in Alsazia e Lorena, come anche nelle zone italiane, questo significa molto, e direi che nel caso delle due realtà ecclesiali che abbiamo preso in considerazione oggi, l'inizio della guerra mondiale significa effettivamente per clero e cattolici trentini una fase di interrogativi anche molto profondi sulla legittimità o meno della continuazione dello Stato austriaco. Viceversa, in una realtà come quella della Venezia Giulia, dominata da una forte componente lealistico slava che naturalmente si accentua negli anni della guerra, lo scoppio della guerra significa un'accentuazione, perlomeno nella Chiesa ufficiale, di questa coloritura, di questa fisionomia asburgica, le preghiere per la patria in armi, i continui anche richiami Questa fisionomia si accentua, lo si vede per esempio anche tutti i momenti difficili, lo si vede anche dopo Caporetto per le preghiere di esaltazione di quella che si ritiene la battaglia che possa significare la svolta nella guerra, e lo si vede in maniera particolare per quei territori che gli austriaci hanno perduto e che riconquistano invece in conseguenza dell'offensiva, per esempio con il ritorno delle truppe austriache a Venezia. E quindi anche da questo punto di vista la guerra rappresenta un elemento di particolare importanza e di differenziazione anche rispetto alla situazione precedente. E grazie, ci rivediamo qui allora tra le 3 e le 3 e un quarto, perché questo pomeriggio, oltre alla relazione e alla discussione di Zacco, sentiremo anche le conclusioni del professor Corti.